la pasticcera diligente. Molto tempo fa, in una città, viveva Mandy, le cui caramelle e torte erano famose in tutta la città, in particolare i suoi cupcakes alla fragola e al cioccolato. Mandy apriva la sua pasticceria molto presto e vendeva solo le torte più fresche, fatte con i migliori ingredienti. Se alla fine della giornata erano rimaste delle torte, le distribuiva ai bambini e ne preparava di nuove per il giorno successivo. La gente si affollava nel suo piccolo negozio di dolciumi. Davvero, Mandy? I tuoi cupcakes sono così buoni! Mio figlio vuole i tuoi dolci per il suo compleanno! Grazie mille! Ed ecco due cupcakes extra per il tuo compleanno! Buon compleanno! Oh, grazie, zietta! Proprio di fronte al suo negozio c'era il negozio di dolci di Barney. Barney era pigro. Vedeva i clienti in fila per le torte di Mandy e diventava geloso. Se la sua attività continua a crescere in questo modo, nessuno verrà nella mia pasticceria. Devo fare qualcosa. Quindi Barney pensò ad un piano per convincere più clienti a venire nel suo negozio. Due cupcakes al prezzo di uno! Due cupcakes al prezzo di uno! Alcuni clienti del negozio di Mandy andarono da Barney, ma presto fecero ritorno da Mandy. Due cupcakes al prezzo di uno! Barney, per qualche motivo, il sapore dei tuoi cupcakes non è buono come quello di Mandy. Anche se li vendi a un prezzo così basso, le tue torte non saranno abbastanza fresche. Scusa. Un giorno, un nobile andò nel negozio di Mandy. Sei tu la famosa pasticcera Mandy? Sì? Come posso aiutarla? Mio figlio ha assaggiato i tuoi cupcakes al cioccolato al compleanno di un amico e insiste per averli alla sua festa di compleanno. Sarebbe un onore, signore. Perché non ne assaggi un pezzo e decidi tu stesso? Ah, sarebbe grandioso. Sono deliziosi. Li voglio assolutamente per la festa. Sono così contenta! Quanti ne vorresti? E quando sarà il compleanno? La festa è sabato, 3 giorni da adesso. Potresti mandare circa 100 cupcakes a casa mia? Preparerò i dolci e li manderò entro le 3 di sabato. Mandy lavorò sodo e preparò 100 cupcakes. Nel frattempo, Barney era venuto a sapere del grande ordine che Mandy aveva ricevuto e decise di rovinarlo. Se al nobile della corte del re piaceranno le sue torte, nessuno verrà mai più nella mia pasticceria. Devo rovinare il suo ordine. Quindi quella notte, quando Mandy aveva preparato tutti i cupcakes, finalmente tutti e 100 i cupcakes sono pronti. Li porterò a casa del nobile come prima cosa. Manderai i cupcakes solo se esisteranno ancora al mattino. La mattina dopo, quando Mandy arrivò nel suo negozio, rimase scioccata nel vedere i suoi cupcakes divorati dai topi. Oh cielo! Com'è successo? Cosa farò adesso? Devono essere lì fra 3 ore! Mandy era davvero preoccupata. Proprio allora arrivò Barney. Cos'è successo, Mandy? Perché sei così preoccupata? Tu non apri mai così presto! Cosa stai facendo qui? Oggi ho una consegna di cupcakes a casa del nobiluomo. Ah, Hai rubato i cupcakes dal mio negozio! Tutto è valido in affari! Ora Mandy era davvero arrabbiata. Non avrebbe permesso a Barney di cavarsela. Ma cosa poteva fare? All'improvviso le venne un'idea. Andò in fretta nella cucina del suo negozio e tre ore dopo, questo è quello che le era venuto in mente. Guarda, mamma! Una torta che sembra un castello! Una torta a castello! Ne voglio una! Wow, che torta bellissima! L'hai fatta da sola? Sì! Quindi Mandy consegnò una torta come nessuno aveva mai visto prima a casa del nobile. Oh, che bella torta! Grazie! So che volevi cupcakes, ma ho pensato di fare qualcosa di speciale per il tuo compleanno. L'adoro! E ora Mandy era famosa non solo per i suoi cupcakes, ma anche per la bellezza delle sue torte e iniziò a ricevere ancora più ordini di prima. In una situazione difficile, Mandy non ha perso la calma e, usando un po' di creatività, è riuscita a cavarsela e a guadagnare ancora più successo di prima.